Gambio. Attenzione, canale 10, Gambio. Attenzione, 10. E chi è? Come un cane. adesso questo qui mi ha proposto, mi ha scritto, mi ha proposto un lavoro su internet. Ma io non mi fido a dare il numero di banca eccetera eccetera, magari sono truffatori. No, ma sa perdere. Mi ha scritto che se guardo il video praticamente gli devo mandare la fotografia del video che mando, le faccio senza screen e poi gliela devo mandare, capito? Certo. E mi paga in base a quello che ho guardato. Mi pare che siano 5 euro a filmato, ma durano poco, devi starci nemmeno 2 minuti. Solo guadagnano dai filmati che tu guardi, capito? Uia. Luca, ci sei? Mi sto mettendo le scarpe già. Vai tranquillo.